tutto ciò succede sabato, cioè sabato il ragazzo rinchiuso muore. Anche noi abbiamo ricevuto la notizia leggendo prima dai giornali, dove appunto veniva riportata la rissa, e tramite testimonianze che sono riuscite ad avere alcune persone che seguono le vicende del CPR solidali contro le frontiere, hanno avuto dei contatti da dentro, quindi sono riusciti a parlare con altri reclusi che appunto hanno dato la versione, la verità di ciò che è successo là dentro. A quanto pare quello che noi sappiamo è che questo ragazzo a inizio della settimana scorsa non trovava il telefono, non voleva tornare in cella e resiste, viene quindi picchiato e viene buttato in cella. Nella rabbia prende un ferro in mano e si fa male allo stomaco, viene quindi poi portato in infermeria, ma ci sta molto poco, torna in cella e si mette a dormire, non si sa, ma forse a causa dei farmaci che gli vengono dati in infermeria. Lui comunque poi si risveglia e lamenta dei dolori, in seguito a ciò chiede di essere portato in ospedale, però non viene soccorso e quindi comincia a gridare, e arriva la polizia che chiedono a un suo compagno, cioè un altro recluso, di collaborare, e a quel punto il ragazzo georgiano inizia a litigare e da lì in otto entrano nella cella e lo picchiano a sangue. Si buttano su di lui e finché non sbatte la testa contro il muro lo bloccano con i piedi sul collo e sulla schiena, poi lo ammanettano e lo portano via e in seguito muore a causa del pestaggio. Noi quando abbiamo saputo della notizia, che è gravissima, abbiamo deciso di organizzare questo presidio il prima possibile per non far passare sotto silenzio quello che è successo su Gradisca di Lisone, nel CPR di Gradisca di Tonso. Non è un'eccezione, queste cose poi sono già successe. Da tanti mesi a questa parte comunque le rivolte all'interno dei CPR sparse per l'Italia stanno continuando, a partire dalle rivolte che si susseguono nel CPR di Via Brunelleschi a Torino. Ci sono state rivolte l'estate scorsa nella sezione maschile del CPR di Roma, che aveva appena riaperto, quindi una situazione un po' simile a quello che è successo anche al CPR di Gradisca, che ha riaperto a metà dicembre scorso. In questo brevissimo lasso di tempo comunque i reclusi hanno iniziato a lottare per la loro libertà e a rivoltarsi da dentro. Noi la settimana scorsa abbiamo raccontato anche un po' tutta una serie di casi, c'è stato anche un altro ragazzo che è morto e poi anche ovviamente dei tentativi di fuga. Voi puntate il dito anche contro la ministra Lamorgese. Sì, quello che sta succedendo adesso, ha riaperto il CPR di Gradisca a dicembre, la sezione maschile del CPR di Roma ha riaperto luglio scorso, dopo anni che era chiuso a causa delle rivolte appunto dei reclusi. Ieri ha riaperto pure il CPR di Macomera in Sardegna, hanno annunciato la riapertura del CPR di Via Corelli a Milano. L'ipotesi della riapertura del CPR di Modena resta ancora aperta. La riapertura dei CPR è in continuità con i DL di sicurezza e immigrazione che ha stilato e emanato Salvini, la neoministra Lamorgese porta avanti il piano. Rimane una continuità tra tutti i governi, tra il governo precedente e il governo Salvini e quello di adesso, non c'è differenza. La gestione degli immigrati, del sistema d'accoglienza e immigrazione.